notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. C'è la ripresa e si consoliderà, dice il governatore della Banca d'Italia Visco. Bisogna spingere sulle riforme. Dalla vicenda della Grecia aggiunge il rischio di destabilizzazione. Il Tribunale di Milano blocca in tutta Italia il servizio Uber Pop, quello che consente a tutti i privati di lavorare sostanzialmente come dei taxi. 15 giorni per smettere o scatteranno le sanzioni. L'Europa prepara le regole per i profughi, ma per l'Italia è un problema. Si prevederebbe la distribuzione di soli 24.000 migranti in 2 anni e solo eritrei e siriani. Parte oggi il divorzio breve, ma per i tribunali è un problema. Al nuovo sistema potrà accedere anche chi ha un procedimento in corso. Rischio caos, ma calano, dice il ministro Orlando, le separazioni davanti al giudice. Il derby di Roma si giocherà sempre di domenica alle 12. È l'ipotesi sulla quale lavora il Ministero dell'Interno dopo gli scontri e le violenze di ieri. Alla partita anche ultras bulgari, inglesi e greci. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di SMS, il 349-238-6666. In apertura dunque l'assemblea annuale della Banca d'Italia. Iniziamo con appunto la relazione del governatore Ignazio Visco. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. I segnali di un'uscita dalla crisi erano stati già ampiamente anticipati dall'Istat e dai maggiori centri studi, ma l'indicazione arrivata questa mattina dal governatore Visco è chiara: anche in Italia si è avviata la ripresa. Ascoltiamo allora questo passaggio di Visco. Il 2014 è stato un anno di forti cambiamenti in Europa per l'evoluzione del contesto istituzionale e per le decisioni di politica economica e monetaria. In Italia per l'accelerazione dello sforzo di riforma. È stato un anno di scelte impegnative, i cui primi risultati, importanti ma fragili, vanno difesi con determinazione. La ripresa avviata nel nostro Paese nel primo trimestre di quest'anno dovrebbe consolidarsi in quello in corso e nei prossimi. La sfida allora per il Paese, secondo Banca Italia, è ora quella di puntare ad una crescita stabile, tale da offrire nuove prospettive di lavoro. Ma come riuscirci? Occorre andare avanti con le riforme, dice Visco, per innalzare la produttività e il potenziale di crescita. Bene allora gli interventi sul lavoro, anche se è prematuro un giudizio sul Jobs Act. Avanti con l'innovazione, la scuola, la revisione della spesa pubblica. Quanto alla ripartenza del mercato del credito, l'attivazione di una bad bank aiuterebbe. Poi le pensioni, è garantita la sostenibilità di lungo periodo, assicura Visco. Infine, attenzione alla crisi della Grecia, va governata, avverte la Banca d'Italia, c'è il rischio di destabilizzazione. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Ci occupiamo di immigrazione adesso con il piano europeo che dovrebbe essere presentato domani, ma non esente, come già vi dicevamo nei titoli, da problemi per il nostro paese. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno. Infatti ovviamente ci saranno molte discussioni, questo era già previsto, si prevedono però anche delle nubi all'orizzonte, perché oltre alle accese discussioni e ai negoziati che già si prospettavano, c'è l'opposizione di una decina di paesi, come già sapete, però ci sono anche delle differenze rispetto al piano che l'Italia avrebbe voluto, e queste riguardano per lo più il termine quote, che è sparito. Si parla di redistribuzione come voleva in fondo Hollande, la Francia. Rimane la quota di 24.000 persone da mandare altrove, ma spalmate in 2 anni, includendo soltanto eritrei e siriani. Soprattutto la distribuzione dei migranti in Europa riguarderà, sembra, secondo le ultime indiscrezioni, soltanto i nuovi arrivi, quindi a partire da luglio, sempre che ci sia il via libera il 26 di giugno, quando ci sarà la riunione dei capi di Stato e di Governo. Del piano sull'accoglienza che l'Italia sarà chiamata a presentare, poi dovrebbero far parte gli hotspot, cioè i centri dove saranno presenti i tecnici dell'Ufficio Europeo per l'Asilo e di Frontex, ed è qui che i migranti in arrivo verranno concentrati per il rilevamento delle impronte digitali e i primi accertamenti. Se ci saranno irregolarità, l'Italia tra l'altro avrà ovviamente, dovrà essere sospesa al trasferimento verso gli altri stati membri. Domani tra l'altro a Bruxelles ci sarà anche Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, e parlerà alla plenaria e probabilmente parlerà anche di migrazione. Di tutto questo, tra l'altro, l'altro noi torneremo a parlare più avanti e chiederemo conto di queste ipotesi che stanno circolando in queste ore a Sandro Gozi, che è il sottosegretario agli affari europei del governo, per capire se veramente l'accordo che si sta prospettando è questo e che sarebbe chiaramente un accordo a ribasso per l'Italia. Intanto Valentina, tu questa mattina sei stata alla stazione centrale di Milano, dove di fatto c'è un nuovo centro, per così dire, di accoglienza dei profughi. Sì, continuano ad arrivare a Milano sempre più profughi, molti siriani. La novità è che ci sono sempre più eritrei. Questa mattina c'era una ventina di persone accampate, ma stavano per arrivare un centinaio di persone, fra le quali 40 bambini. Così ci hanno detto dalla Onlus Emergenza Siria, che si occupa nel mezzanino della stazione centrale di accogliere queste persone. Devo dire che la situazione nel mezzanino è sempre più di degrado, nonostante gli sforzi dei volontari. E sotto un cartello centro assistenza profughi siriani, ad esempio, c'è un cumulo di coperte accatastate con vestiti, scarpe spaiate. Due persone hanno dormito con queste coperte, poi sono state piegate. Insomma, l'emergenza scabbia di qualche settimana fa a questo punto non stupisce. E hai raccolto anche delle voci, Valentina? Sì, sì, sentiamo. Sta dicendo che hanno praticamente vissuto la morte per arrivare fino a qua in Italia. Sono arrivati via mare dall'Egitto e il viaggio doveva durare 6 giorni, ma è durato 12 giorni. La destinazione principale è sempre, quasi sempre, la Germania. Non vuole rimanere in Italia? No, nessuno dei profughi che vengono qua vogliono rimanere in Italia. Arrivano in treno da dove? Dalla Sicilia? Arrivano da Crotone, se non sbaglio, stavolta, da Crotone. Poi la situazione nei centri sapete com'è? Sono pieni, diciamo. Queste persone che arrivano di che nazionalità sono? Prevalentemente siriana. Qualche iracheno, dei palestinesi, poi ci sono la nuova ondata, quella degli eritrei. E grazie a Valentina Furlanetto per questi aggiornamenti, tanto sul piano europeo quanto sulla situazione dei profughi a Milano. Siamo alla campagna elettorale per le amministrative, mancano pochi giorni al voto. Il punto di oggi con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, subito diciamo che si gioca anche sull'Europa la partita per le regionali e Matteo Renzi torna a chiedere all'Unione di cambiare rotta, perché è un bivio tra il tirare a campare e l'affrontare con determinazione nuove sfide. Per il Premier Bruxelles deve ricostruire in primis sul rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, superando austerità e euroscetticismo. Renzi nega poi che il risultato delle regionali avrà conseguenze sul governo. Dall'altra parte invece Matteo Salvini ha tesi opposte. Per il leader della Lega l'Unione sta massacrando l'Italia, dall'agenda migranti alle politiche economiche. Ci chiede di tagliare pensioni, sanità, dice Salvini, ci dia invece una mano sull'immigrazione e non rompa le scatole sul resto. La sfida però è anche dentro il centrodestra, con Silvio Berlusconi che giudica Salvini un provocatore e stoppa le ambizioni di leadership del segretario del Carroccio. Sul fronte migranti critica il governo anche dal Movimento 5 Stelle. Per Luigi Di Maio la strategia dell'esecutivo è andare in Europa e dire sì signore senza mai battere i pugni sul tavolo. A sinistra invece Pippo Civati annuncia un nuovo soggetto possibile con SEL e quella coalizione sociale di Landini a giugno. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Allora, oggi il Tribunale di Milano ha disposto il blocco di Uber Pop, che è uno dei servizi messi a disposizione dalla app Uber su tutto il territorio nazionale, con inibizione dalla prestazione del servizio. È stato accolto il ricorso presentato dalle associazioni di categoria dei tassisti per concorrenza sleale. Uber Pop è quella parte dell'applicazione di Uber che consente di fatto a chiunque di operare come una sorta di tassista. Così rispondiamo anche all'ascoltatore che ci chiedeva e ci diceva: non avete intenzione di parlarne? Ne parliamo, l'abbiamo detto nei titoli, lo ripetiamo adesso e più avanti alle 13.35 ne parleremo con una delle associazioni di tassisti ricorrenti. Al momento c'è da dire che Uber, la stessa Uber, ha deciso di non parlare, quantomeno per il momento. Restiamo sulla cronaca e andiamo ai 39 provvedimenti di custodia cautelare per gli esponenti del clan mafioso Pagliarelli a Palermo e il sequestro di 400 kg di droga. L'operazione con condotta dai carabinieri nel quartiere di Palermo ha smascherato nuovi canali del traffico di droga e reti di estorsione e corruzione, ma soprattutto l'indagine ha fatto emergere un nuovo modello di associazione mafiosa, una sorta di triumvirato. Sentiamo il colonnello Giuseppe De Riggi, intervistato da Valeria Grandi. La pericolosità di questa organizzazione sta nei nuovi canali dello stupefacente che sono stati aperti, in particolare i collegamenti con la zona del Napoletano e del Piemonte, con continui spostamenti per rifornire le piazze di spaccio palermitane. Come si sono riorganizzati quindi? C'è una nuova radice forte? Più che una nuova matrice, noi possiamo parlare di una cosa nostra che ha la capacità organizzativa di rigenerarsi, e in questo caso, laddove manchi una leadership forte, c'è la suddivisione, la condivisione delle scelte strategiche criminali attraverso addirittura la formazione di un vero e proprio triumvirato tra tre capi famiglia. E sempre i carabinieri, ma del comando di tutela del patrimonio culturale, hanno recuperato delle opere molto importanti negli Stati Uniti. Gli affreschi erano nella collezione privata di un magnate americano ormai morto, pronti per essere messi all'asta. Rubati nel 57 nei locali della soprintendenza di Pompei, sono tornati in Italia insieme ad altre 22 opere recuperate negli Stati Uniti dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Risalgono al primo secolo avanti Cristo. Protagonista di uno degli affreschi è una giovane donna con un amorino sulle spalle. Negli altri due compaiono una figura maschile e una fanciulla con un mantello rosso. E poi sono stati riportati in Italia crateri, manoscritti, un bronzetto romano e la cuspide di un sarcofago, tutti beni arrivati negli Stati Uniti in maniera illecita. Risale al VI secolo a.C. la più antica delle opere rimpatriate, un vaso etrusco venduto a un museo dell'Ohio dal noto trafficante Giacomo Medici, mentre una ceramica dell'antica Apulia, in vendita all'asta da Christie's a New York, era riconducibile a scavi clandestini avvenuti negli anni 70-80 in Puglia. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È morto a 89 anni, è morto il 15 maggio scorso e vi abbiamo raccontato della leggenda del blues B.B. King, morto a Las Vegas. Le figlie oggi dicono è stato avvelenato. Precious Lord, take my hand. Nessuna traccia di veleno è ciò che emerge dagli esami preliminari sul cadavere di B.B. King, il leggendario re del blues morto a Las Vegas il 14 maggio scorso a 89 anni. Lo ha reso noto il coroner dello stato del Nevada dopo l'autopsia, i cui risultati completi saranno resi noti soltanto tra circa 8 settimane. Smentita invece l'apertura di un'inchiesta per omicidio da parte della polizia di Las Vegas. L'autopsia si è resa necessaria dopo le accuse lanciate da due delle figlie del grande chitarrista, Patti King e Karen Williams, secondo le quali il manager, Laverne Toney, e l'assistente personale, Miron Johnson, avrebbero avvelenato il padre e proibito ai familiari di assisterlo al suo capezzale. Laverne Toney, il quale è anche esecutore testamentario dell'eredità del musicista, che pare ammonti ad alcune decine di milioni di dollari, ha definito ridicoli i sospetti avanzati dalle due figlie di B.B. King. Ben tre medici hanno verificato che il musicista ha ricevuto cure appropriate per 24 ore al giorno ed è stato monitorato da specialisti sino a che non è deceduto tranquillamente nel sonno. La salma del re del blues, che ha divorziato due volte e ha lasciato un numero imprecisato di figli tra gli 8 e i 15, verrà trasferita a Indianola, in Mississippi, dove il musicista nacque nel 1925 e dove sorge il B.B. King Museum, che ospiterà i suoi resti dopo la cerimonia funebre fissata per il 30 maggio. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'indomani del derby tra Roma e Lazio si discute della sicurezza da una parte, della qualità del derby medesimo e si attende la partita tra Lazio e Napoli per decidere chi andrà in Champions. Dario Ricci, buongiorno. Eccoci Simone, beh, sicuramente di avvelenato di certo c'è l'atmosfera, no? Intorno a questo derby, sia per alcune cose che si sono viste in campo, di, chiaramente parere opinabile, ma insomma il clima è sempre quello un po' provinciale del derby romano, sia soprattutto, e questo è dato oggettivo per la cronaca nera, notizie di giornata che già anticipavi. Fonti del Viminale ipotizzano che per il derby d'ora in poi c'è un unico orario, un unico giorno in cui si potrà giocare, la domenica alle 12, l'unico orario possibile che Roma può permettersi per ospitare la propria stracittadina. Ora, da un lato su questo aspetto dovranno riflettere Claudio Lotito, sappiamo bene il maggior artefice di questo spostamento, le TV, ma certo è una sconfitta per tutti. tutti se pensiamo che Londra è una città in grado di ospitare 4 o 5 eventi sportivi contemporaneamente negli stessi orari, nella stessa sera. E vabbè. E poi c'è l'altro fenomeno che sottolineavi, la migrazione degli ultra europei da un punto all'altro del continente per sostenere in queste partite calde le squadre con cui sono gemellate. L'elenco è ancora parziale, ma solo ieri sugli spalti dell'Olimpico c'era una cinquantina di ultra del Wisla Cracovia, di cui sei fermati con passamontagna e armi rispediti a casa. Un gruppetto del West Ham, quindi Inghilterra ben rappresentata, il West Ham è una famigerata tradizione in questo senso, e poi ultra dalla Bulgaria, dalla Grecia, e aspettiamo che vengano definiti anche altri gruppi. Fenomeno noto, il fatto che non si sia riuscito a intercettarlo però è doppiamente preoccupante. Quindi certamente lato sportivo, Dario, adesso ovviamente l'attesa è per la partita tra Napoli e Lazio, no? Eh sì, che dà sapore anche all'ultima giornata di campionato, un vero e proprio spareggio Champions. La Lazio rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano alla fine di una stagione invece ricca di risultati parziali importanti, perché sfumata la Coppa Italia su un doppio palo alla fine, sfumato il derby a 5 minuti dalla fine, chissà che il Napoli non risorga e gli strappi anche questo terzo posto. Ad oggi non sembra probabile, perché la squadra di Benitez sembra abbastanza dissolta, e lo stesso Benitez già con la valigia in mano, però 90 minuti possono risuscitare chiunque. Grazie al nostro Dario Ricci dei temi sportivi, come sempre torneremo a parlare a partire dalle 14 in tutti i convocati. Invece tra poco, nella seconda parte della trasmissione, parleremo parecchio di immigrazione, ne parleremo col sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi su questa nuova ipotesi che arriva dall'Europa, che sarebbe assai penalizzante per l'Italia, e poi parleremo con Oliviero Forti, che è responsabile immigrazione della Caritas. Perché? Perché, come vi abbiamo raccontato ieri, c'è un'inchiesta che riguarda il tema dell'accoglienza e alcune malversazioni, e che lambisce anche una struttura della Caritas. A tra poco. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. C'è la ripresa, si consoliderà, dice il governatore della Banca d'Italia Visco, bisogna spingere sulle riforme. Il Tribunale di Milano blocca in tutta Italia il servizio Uber Pop, quello che consente a tutti i privati di lavorare sostanzialmente come dei taxi. L'Europa prepara le regole per i profughi, ma sarebbero penalizzanti per l'Italia, si prevederebbe la distribuzione di soli 24.000 migranti in 2 anni. Parte oggi il divorzio breve, ma per i tribunali c'è il rischio caos. Al nuovo sistema potrà accedere anche chi ha un procedimento in corso. Buongiorno a Sandro Gozzi, sottosegretario agli affari europei, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, vogliamo parlare con lei di queste indiscrezioni che stanno circolando sul piano europeo sull'immigrazione, che dovrebbe essere presentato domani. Un piano europeo che, secondo quello che sta circolando in queste ore, prevederebbe la distribuzione di soli 24.000 profughi nell'arco dei prossimi 2 anni, ne sarebbero esclusi quelli arrivati sul territorio nazionale fino ad oggi, e in aggiunta si tratterebbe solo di eritrei e siriani, perché si prevederebbe che possano essere considerati profughi appunto solamente quelli che sono riconosciuti come tali dal 75% dei paesi europei. È un problema per noi. Ma guardi, innanzitutto vediamo quale sarà la proposta finale della Commissione. Chiaro che è un problema non solo per noi, ma per l'Europa, se ogni volta, e anche questa volta, quando ci sono delle proposte di grande lungimiranza e di grande efficacia come quelle della Commissione europea, l'atteggiamento dei governi è: beh, dopo tutto è un problema innanzitutto di questo o quell'altro paese, cioè dell'Italia nel caso della Grecia, non dobbiamo poi fare tanti sforzi per farcene carico, perché questo è il modo perfetto per non costruire l'Europa che ancora manca e per distruggere l'Europa. Ma se la proposta fosse questa, che cosa fareste? Ma innanzitutto vediamo quale sarà la proposta finale della Commissione europea. C'è un aspetto che non va comunque sottovalutato, e cioè che per la prima volta abbiamo delle proposte che mirano degli obiettivi, che sono gli obiettivi che noi abbiamo sempre chiesto alla Commissione europea di riprendere, e finora la Commissione europea non l'aveva mai fatto. Per la prima volta con la Commissione Juncker lo fa: sancire il principio stesso della distribuzione dei rifugiati politici tra tutti i paesi dell'Unione Europea è comunque un grandissimo passo in avanti, cioè finalmente abbiamo fatto beccia. È evidente, e questo è qualcosa su cui riteniamo già che sia un punto di non ritorno, cioè noi stiamo lavorando per far passare finalmente un principio su cui tutti gli altri governi italiani che ci hanno preceduto... Detto ciò, se l'accordo è questo, se la proposta è questa, immagino che non vada bene al nostro governo. No, certamente questa proposta è ben al di sotto di quanto necessario e ben al di sotto di quanto la stessa Commissione aveva indicato e proposto nella sua agenda europea per la migrazione. Vediamo quale sarà la proposta della Commissione europea domani. È chiaro che per noi, se fosse questa, c'è molto da migliorare sia in sede di ministri che in sede di capi di Stato e di governo a vertice europeo. Senta, nel caso sareste, nel caso fosse questa, sareste disposti a bloccare l'accordo? Ma guardi, lei deve capire che un governo non dice quale sarà la sua posizione sulla base delle indiscrezioni. Non è questo un buon modo di ottenere le cose in Europa. Aspettiamo la proposta della Commissione europea domani e magari poi ci risentiamo e vi diremo anche quali sono le nostre reazioni ufficiali. C'è un'ultima domanda che le voglio fare. Io non so naturalmente se su questo è stato informato e quindi semmai le chiederei un commento a caldo, insomma, ed è la seguente cosa. Pochi istanti fa l'Espresso ha pubblicato dei documenti di Wikileaks che riguardano i documenti, dei documenti riservati che riguardano la missione militare in Libia. E si parla di un intervento militare vero e proprio con operazioni di terra. Ne sa qualcosa di più? No, non ne so assolutamente nulla. Non sapevo neppure, devo ammettere, che l'Espresso avesse fatto questa pubblicazione, quindi purtroppo non posso assolutamente esprimermi sul punto. La ringrazio, grazie a Sandro Gozi, sottosegretario agli affari europei del governo. E saluto, restiamo a parlare di immigrazione, ma su altre questioni. Saluto Oliviero Forti, responsabile immigrazione della Caritas. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. L'abbiamo chiamata innanzitutto per questa vicenda che ieri abbiamo raccontato e che lambisce una struttura della Caritas con un sacerdote indagato proprio sul tema dell'accoglienza e del denaro che viene dato agli immigrati per le loro spese quotidiane, il cosiddetto pocket money. Sono tra i 2 e i 2,5 euro circa, Forti, se non sbaglio, al giorno. Sì, confermo, questa è la cifra che da diverso tempo viene riconosciuta a chi si trova in accoglienza nelle strutture che sono deputate a questo tipo di attività. Ci tengo a sottolineare che le indagini che sta portando avanti la magistratura riguarda l'accoglienza non quella degli ultimi mesi, ma riferita all'emergenza Nord Africa nel periodo 2011-2013. Sì, questa è l'inchiesta messa in piedi dalla magistratura e, come si diceva, riguarda alcune strutture, alcune cooperative che si occupavano dell'accoglienza anche in collegamento appunto con la Caritas di Teggiano Policastro. Siamo nella provincia di Salerno e indagato il responsabile di fatto locale della Caritas. Che avete parlato con la Caritas locale, vi avete parlato con Don Federico, vi ha detto qualcosa, vi ha dato delle indicazioni? Beh, certamente abbiamo avuto modo nell'immediato, insomma, di sentire Don Vincenzo Federico e cercando un po' di capire quali erano un po' i contorni della vicenda, perché così come riportati dalla stampa purtroppo non erano, ahimè, chiari a nessuno, neanche a noi. Abbiamo compreso che appunto l'arco temporale era quello relativo, come dicevo, al 2011, l'emergenza Nord Africa, che riguarda appunto le emissioni dei ticket money così come previsto allora dalla regione Campania, dalla protezione civile. Ricordate, all'epoca l'emergenza fu affidata alla protezione civile e nella regione Campania si decise che tutte le strutture d'accoglienza rilasciassero questi pocket money sotto forma di buoni, di ticket sostanzialmente ai migranti, che poi potevano spendere in esercizi convenzionati. Ed è qui che la magistratura sta indagando per capire se anche persone accolte dalla Caritas di Reggiano Policastro utilizzassero questi ticket in maniera non conforme. C'è da dire, ipotizza la magistratura una sorta di traffico di questi ticket, no? Sì, ma la cosa incredibile, però mi sento di dire, di sottolineare, è che lo stesso direttore Don Vincenzo Federico all'epoca, subodonando questa situazione, fece presente al Viminale che non era questo uno strumento valido, perché poteva in qualche modo dar vita a un po' un mercimonio, e proprio grazie a questa indicazione di Don Vincenzo Federico il Viminale fece una circolare che trasformò questa sorta di buoni in denaro contante, così che potessero gli stessi migranti utilizzarlo come meglio credevano, evitando vendite o passaggi chiaramente poco chiari. Ritenete Don Vincenzo Federico estraneo a questi fatti? Avete fiducia in lui? Sicuramente, anche solo per il fatto, come dicevo, che è stato l'unico a denunciare questa situazione. Se avesse avuto gli interessi personali, evidentemente non avrebbe fatto un passaggio presso il Viminale addirittura, che comunque ha compreso l'importanza di tutto questo. Poi è evidente, anche noi vorremmo attendere un po' di capire l'esito di queste prime indagini, che oggi conosciamo solamente attraverso questo avviso di garanzia i contorni della vicenda, ma abbiamo bisogno di maggiori elementi poi per dare anche un giudizio definitivo. Non è il primo caso, Forti, nel quale emerge che dietro al sistema di accoglienza dei migranti o dei profughi si siano verificate delle, quantomeno ipotetiche in questo caso, malversazioni. C'è un problema di fondo da questo punto di vista? Il caso più evidente che ricordiamo è quello più famoso, forse quello dell'inchiesta su Mafia Capitale. C'è un problema e qualcosa da risolvere da questo lato? Sicuramente c'è un problema di sistema legato alle emergenze. Il problema è che il nostro è un paese che ha affrontato il tema dell'immigrazione sempre con un approccio emergenziale, che ha portato a scelte le più diverse e che in breve anche tempo sono cambiate, e che hanno messo molti nelle condizioni di non essere in grado di monitorare come vanno queste migliaia di accoglienze in giro per l'Italia. È chiaro che un sistema strutturato che preveda anche un monitoraggio costante, un controllo, aiuta certamente tutti a lavorare meglio e a evitare che accadano queste cose. Poi ricordo anche che per la vicenda che ci vede in qualche modo sotto la lente della magistratura, riguarda in particolare non tanto il nostro settore quanto una cooperativa, un'associazione, una onlus che non fa parte chiaramente della nostra Caritas, che è in un'altra realtà campana, quindi anche questo si tenga sottolineato, altrimenti si fa molta confusione e ingiustamente, come dire, non si restituisce un quadro chiaro della situazione. Però ecco, attendiamo di capire come andranno le cose poi. La ringrazio e grazie per la disponibilità ad Oliviero Forti, responsabile immigrazione della Caritas, che lasciamo anche perché sappiamo che ha un impegno. Noi ci ritroviamo tra poco, subito dopo la borsa, e parleremo del divorzio breve, perché come già vi dicevamo nei titoli c'è qualche problema e qualche preoccupazione nei tribunali. Perché? Perché sostanzialmente chi ha già un procedimento in corso potrà accedere alle nuove procedure e c'è il rischio che i tribunali, tra l'altro a corto di personale, ne rimangano intasati. Ne parleremo con Umberto Antico, che è responsabile della prima sezione civile del Tribunale di Napoli, che ha previsto dalle colonne ieri del Sole 24 Ore un incremento dell'80% dei fascicoli. E poi ci occuperemo della vicenda Uber, che avete sentito nei titoli. Il Tribunale di Milano ha fermato Uber Pop su tutto il territorio italiano. Ne parleremo con una delle associazioni dei ricorrenti, l'Unione Artigiani, in particolare nel settore dei taxi, a tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Secondo il governatore della Banca d'Italia Visco, la ripresa c'è e si consoliderà. Il Tribunale di Milano blocca in tutta Italia il servizio Uber Pop. L'Europa prepara le regole per i profughi, ma per l'Italia sarebbe un problema. Si prevederebbe la distribuzione di soli 24.000 migranti in 2 anni. Il derby di Roma si giocherà sempre di domenica alle 12, l'ipotesi sulla quale lavora il Viminale, la borsa. Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci a parlare del divorzio breve che da oggi è in vigore. C'è un calo tendenziale, ha detto questa mattina il ministro Orlando, del 30% nelle iscrizioni di separazioni e divorzi davanti al giudice, mentre aumentano le registrazioni di accordi in questa stessa materia che avvengono davanti agli uffici di stato civile dei comuni. E questo ovviamente è un bene per togliere qualche intasamento alla nostra giustizia civile. Dall'altra parte arriva oggi appunto il divorzio breve. In sostanza, qual è il problema? È che chi ha in piedi un procedimento con il vecchio sistema può passare a quello nuovo, e il rischio è che appunto nei tribunali si arrivi ad avere un po' troppi procedimenti civili su questo tema. Saluto Umberto Antico, che è responsabile della prima sezione civile del Tribunale di Napoli. Giudice Antico, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, lei ha stimato un più 80% nei fascicoli nei prossimi mesi? Sì, all'incirca dovrebbe essere quello. Ovviamente è una stima. Perché le dico quella cifra? Perché se la negoziazione assistita avrà successo, allora probabilmente è vero ciò che dice il Ministro, cioè che ci sarà una notevole riduzione. Ove ciò non dovesse accadere, e i dati in verità non sono proprio confortanti, almeno quelli che registriamo a Napoli, allora all'incirca noi manterremmo i numeri che abbiamo mantenuto sinora, con la differenza che mentre un processo di divorzio oggi arriva dopo 3 anni dalla separazione, o meglio fino a ieri arrivava dopo 3 anni dalla separazione, da oggi in poi arriva la nostra cognizione dopo appena 1 anno, il che significa un'anticipazione, con le conseguenze numeriche del caso, di ben 2 anni sulle normali scadenze che potevamo aspettarci. Sostanzialmente l'impatto dovrebbe essere all'incirca quello. Ecco, ci auguriamo che mi sbaglia. si augura naturalmente di sbagliarsi. Giusto per essere precisi con gli ascoltatori, perché poi i numeri vanno presi in termini percentuali, ma vanno presi anche i numeri assoluti. E sì, oggi il ministro Orlando li ha dati. Si parla di 15 comuni presi a campione. Si è passati dalle 78 procedure negoziali, per così dire, di gennaio alle 413 di aprile. Quindi stiamo parlando sempre di numeri limitati, il più 30% fa impressione, ma la dimensione dei numeri assoluti non è enorme. Come fate a gestire tutto questo? Questo adesso sarà il problema che ci occuperà nei prossimi giorni, perché in realtà vogliamo vedere appunto che cosa accadrà. Prima di effettuare le modifiche tabellari, ricordo che le tabelle sono praticamente i criteri organizzativi del Tribunale, si chiamano tabelle. Prima di effettuare quindi modifiche ai criteri organizzativi del Tribunale, ci preme capire con precisione quale sarà la tendenza nei prossimi mesi. È chiaro che se dovesse risultare vero quello che io penso che accadrà, e allora dovremmo tentare, pensare anche di effettuare una modifica in modo da stabilire che il giudice del nuovo divorzio breve sia lo stesso che si è occupato anche della separazione. Perché purtroppo è molto verosimile che avremo una situazione non gradevole, cioè quella della contemporanea pendenza al tribunale del giudizio di separazione e del giudizio di divorzio. Ciò avverrà solo a determinate condizioni, cioè che nel giudizio di separazione il tribunale già abbia emesso una sentenza parziale, non definitiva, in cui dichiari la separazione. E le dico che proprio stamattina qualche avvocato si è presentato a chiedere contezza di come fare per chiedere una decisione parziale dei processi di separazione in corso. Allora, giudice Antico, facciamo così, ci aggiorniamo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, così ci racconta com'è andata. Io intanto la ringrazio, vedremo come evolveranno le cose da questo punto di vista. La ringrazio, le auguro buon lavoro, e all'ascoltatore che ci scrive, sempre a lamentarsi, oramai il provvedimento è in vigore in tutta Europa, non ci stiamo lamentando, stiamo semplicemente segnalando che potrebbe esserci un problema all'interno dei tribunali. Saluto Pietro Gagliardi, che è dell'Unione Artigiani ed è il delegato taxi. Buongiorno Gagliardi. Buongiorno a voi. È una delle associazioni che, ricorrendo, ha ottenuto quella che ritiene essere giustizia davanti al Tribunale di Milano, ossia il blocco di Uber Pop, uno dei servizi messi a disposizione dall'app di Uber, quella che consente in sostanza ad ogni singolo utente automobilista di diventare una sorta di tassista. Gagliardi, abbiamo pochi minuti. Io quello che voglio capire, al di là della vostra gioia per il successo, perché il blocco riguarda tutta Italia, se avete intenzione di muovervi anche contro Uber stessa, cioè l'applicazione che consente l'utilizzo, diciamo, degli NCC come se fossero dei taxi. Noi abbiamo intenzione di andare fino in fondo in questa storia, cercando di fare capire che quello che noi vogliamo è semplicemente il il rispetto delle regole e non l'elusione delle regole. Per cui le regole ci sono, sono scritte, vanno rispettate come le rispettiamo noi, come le rispettano gli altri. Noi è semplicemente questo che chiediamo, non vogliamo assolutissimamente bloccare nessuno, vogliamo che tutti rispettino le regole. Le regole del gioco sono scritte, sono chiare, vanno rispettate e quando tutti rispettiamo le stesse regole possiamo allo stesso tavolo si può discutere. C'è dall'altra parte Gagliardi, leggo questa battuta che girava oggi su Twitter, chiedo scusa all'utente che non riesco a citare perché non l'ho recuperata, ed è questa: è un po' come se Poste Italiane ricorresse contro chi fornisce il servizio mail. No, non è proprio così, perché chi fornisce il servizio mail rispetto a Poste Italiane rispetta delle regole che regolano quel servizio. Noi quello che chiediamo è proprio questo, noi non abbiamo paura della concorrenza, quello che vogliamo è il rispetto, noi dobbiamo giocare a bocce ferme tutti con le stesse regole. Nel momento in cui tutti hanno le stesse regole e rispettano le regole di questo servizio, noi non siamo né contro l'innovazione né contro la tecnologia, assolutamente il contrario, e soprattutto noi abbiamo fatto questa operazione prima di tutto per salvaguardare il nostro lavoro, ma anche per salvaguardare gli utenti che in questo modo non vengono assolutamente tutelati. La ringrazio, grazie a Pietro Gagliardi, delegato taxi dell'Unione Artigiani, una delle associazioni ricorrenti. Da dirvi che stamattina abbiamo provato a contattare anche Uber e per il momento non parlano, vedremo se arriveranno reazioni da parte loro nelle prossime ore. Traffico